richieste di Pianeta Rock. Monografie, interviste e storie a cura di Maurizio Angus Fidoli. In the devil's playground with an idle mind, straight up ready to go, announce the time. Does it still have the magic? Yes it does. He'll be famous just because, just because. You know you're gonna have to turn around, just because you have to change your mind sometimes. Yeah, you're gonna have to turn around. Ride my rocket. Round and round and round we go one time before I die. Round and round and round the world in super overdrive. See the world through a little hole, see it fly by. Here I am in super overdrive. You're in the line, it's super overdrive. I'm sliding on the swings, I'm swinging on the slides, I'm alive. Fuel injected, passion erected, identified. One day it's gonna come, boy, you're gonna pay. Oh, that ain't today. Riding on a Milky Way, on a Milky Way. You know you're gonna have to turn around, just because you have to change your mind sometimes. Nel 76 ho ricevuto una cartolina postale da Steve Bailey, che più avanti avrebbe suonato nei Siouxsie and the Banshees col nome di Steven Severin. Aveva visto i Sex Pistols, nella cartolina diceva appunto che era la band che stavamo aspettando e che doveva assolutamente andare a Londra. All'epoca frequentavo l'università del Sussex a Brighton. Sono andato a Londra e ho visto un po' di concerti compresi Pistols. All'inizio facevano cover tipo Substitute dei Who. Poi una volta hanno provato un pezzo nuovo, Pretty Vacant. Non era solo una canzone, era una grande canzone. Una settimana dopo hanno raggiunto al repertorio Anarchy in the UK. Quando l'ho ascoltata, ho subito pensato che era l'inno dei nostri tempi. Credevamo davvero a quello che stavamo vedendo. Ero convinto che era quello il destino della nostra generazione. Ai miei capelli volevo aggiungere dei riflessi blu. Una ragazza me li ha decolorati, che è quello che devi fare prima di aggiungere i riflessi e ritingerli di nero. A quel punto ha aperto la borsa e si è accorta che non aveva il necessario per farli blu. Mi ha detto che ci avrebbe riprovato la settimana dopo. Mi sono guardato allo specchio e ho pensato che non fosse poi male. Era un po' arancione, ma figo, soprattutto per un punk. Li ho tenuti così e sono andato alle prove del mio gruppo, i Chelsea. I give you all. Appena sono entrato, il cantante Gene October mi ha detto: mica avrai intenzione di tenere i capelli così, vero? Gli ho spiegato tutta la storia, ma era determinato a farmeli cambiare. Forse aveva paura che gli avrei rubato il centro della scena. Gli ho detto che li avrei tinti di nero, ma ovviamente non l'ho mai fatto. Sono diventati il mio marchio di fabbrica. Se mettevi un disco dei Suicide, la gente scappava dalla stanza, ma io ci sentivo della melodia, sentivo le canzoni. Alan Vega mi ricordava David Bowie e Kraftwerk. Ascoltavo quella roba già negli anni 70. Kraftwerk, New, I Can, gruppi che usavano l'elettronica pur non essendo band elettroniche. Poi mi è venuta voglia di usare anche la disco. Appena ho sentito quello che Giorgio Moroder faceva con Donna Summer, ho pensato che sarebbe stato grandioso fare qualcosa di simile, ma in chiave punk rock. È stato Bill Hawking, il manager, a parlarmi di Steve Stevens. Diceva che era un chitarrista fantastico, e così quando l'ho incontrato mi è piaciuto subito. Abbiamo deciso che mi avrebbe aiutato a mettere su una band per il tour. Anni dopo ci siamo allontanati. È successo perché esageravo con la droga, in particolare con la coca. In realtà io non sono un tipo da cocaina. È uno dei miei più grandi rimpianti della vita. Sapevo di non essere quel tipo di persona, ma ho iniziato comunque a prenderla. E come tutti i tossici, ho cercato una libertà che io stesso facevo in modo di non raggiungere. Diciamo che non ero proprio il tipo di ragazzo per bene. Quando ero su dei giri, mi comportavo in modo violento. Pensa che durante le registrazioni del disco d'esordio, rientrai in albergo alle 3 di mattina. Avevo voglia di bere, ma non avevo trovato nulla di aperto in zona. E così pensai che in hotel mi avrebbero fornito un po' di alcolici, ma niente. Erano tutti a dormire, ed il portiere di notte ovviamente era astemio. Per cui sperai di aprire il frigo nella mia stanza e trovarci qualcosa. Sai che c'erano solo delle fottute bottiglie di acqua. Ma chi cazzo se le beve quelle? Non esiste nella mia stanza. Ero fuori davvero. Avevo sniffato coca in studio e mi saltò il cervello. Cominciai a spaccare mobili, divani, staccai i quadri e li lanciai dalla finestra. Praticamente stavo dando di matto. Poi, all'improvviso entrano loro, poliziotti poco raccomandabili. Pensai, ecco, è fatta. Adesso mi massacrano di brutto. E invece, loro mi guardarono e mi dissero che erano disinteressati a me. Stavano indagando per la morte di John Belushi. And a mirror's reflection, I'm a dancing with myself. When there's no one else inside, I'm in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Dancing with myself. Dancing with myself. When there's nothing to lose and there's nothing to prove, I'm dancing with myself. Every type of girl, but your empty eyes seem to pass me by, leave me dancing on with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd have a woman to dance, and I'd be dancing on with myself. Dancing on with myself. Dancing on with myself. Well, there's nothing to lose, so there's nothing to prove. Dancing with myself. cause it'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing with myself. I'm dancing with myself. Sai, anche nel mio campo ho trovato chi mi odiava. È successo nei primi anni del punk. Suonavo con i Generation X ed era fico condividere il palco con i Cure. Mi sembravano tipi a posto, ma quello stronzo del loro batterista gli stavano sul cazzo i miei capelli ossigenati e mi pisciò sulle scarpe. Pezzo di merda, che cazzo fai? E così durante la rissa ci rendemmo conto che era impossibile continuare a suonare insieme. È continuata così la mia vita da pazzo scatenato, fino all'incidente con la moto dopo un party in cui mi ero sniffato pure Cristo. Decisi così che era giunto il momento di cambiare stile di vita e di disintossicarmi. Ho fatto quell'incidente terribile dove potevo rimetterci la gamba, oltre che la vita. E così dovevo smettere. Ma ci ho messo molto tempo. Mentre ero in ospedale mi sono reso conto che dovevo affrontare questa cosa che aveva guidato la mia vita per 10 anni. Se non l'avessi fatto, adesso sarei morto o in prigione. Schools and the teachers are fools, and you just want to break. I sit you close to the edge and you're pissed at your work, and the boss is just a jerk. From promises to preacher, and nothing is nature, and I can't stand the church. Well, I have my opinion and I don't want to win it now. I just have to work. All right. Well, I feel the whole world coming down on me. Judge and the jury, they thought they could school me and teach me the value of thrift. They put me inside on a 125 and I just had to quit. Well, early in the morning when we are bowling, I nearly had a fit. It came to my head and I just had to sing, gonna be nobody's bitch. I feel the whole world coming down on me. I feel the whole world coming down on me. To protect yourself, well, it ain't gonna happen right. You junkie pimps and motherfucking whores, enjoy yourself tonight, alright? I feel the whole world coming down on me. I feel the whole world coming down on me. Coming down, ho sviluppato una grande disciplina, ma non sono ancora al 100%. Ho mollato le sostanze pesanti e non bevo molto. Ma lo voglio dire a tutti. I drogati sono molto intelligenti. Siamo capaci di mentire sempre e comunque. Non diciamo mai la verità e facciamo le cose di nascosto. C'è una relazione orribile tra il sistema che fornisce le droghe e le persone che ne hanno bisogno. Non sono solo i drogati a nascondere dei segreti, credetemi. È importante che chi ha dei problemi di dipendenza, come è successo a me, sappia che può rivolgersi a qualcun altro per chiedere aiuto. Aprirmi così tanto, andare a scavare in un passato che spesso è stato davvero divertente, talvolta esilarante, ma che allo stesso tempo mi ha portato vicino alla morte innumerevoli volte, è stato davvero intenso. È inutile nascondersi, ormai sono un sessantenne, quelli che quando andavo a vedere i primi concerti per me erano a un passo dalla tomba. Ma ero stupido forse, ma quelli erano anche altri sessantenni. Sono un omaggio vivente ai Sex Pistols. Ancora oggi mi incazzo e perdo le staffe con chi mi dice che il loro valore è stato amplificato dalla storia o che non avevano nulla a che fare con la musica e tutta una serie di stronzate di questo tipo. se non hai vissuto quel momento storico, se non ti sei sentito come ci sentivamo noi in quel preciso istante, non potrai mai capire l'importanza per la nostra generazione di quel messaggio. Chi dice che molti altri gruppi punk sono stati più importanti sa di mentire, e lo fa perché magari è cool dirlo oggi, ma è la storia a dire che un personaggio come John Lydon ha la stessa importanza che viene attribuita ad Elvis, altra figura di rottura totale di ogni schema esistente all'epoca. Io ringrazio i Pistols per avermi ispirato così tanto. Torno immediatamente in quel buco di culo in cui li vidi 40 anni fa. Probabilmente fu un po' quello che successe a chi vide i Velvet Underground 10 anni prima. Mi dissi che se lo potevano fare loro, avrei potuto anch'io dire la mia senza preoccuparmi della forma in cui lo facevo. Il concetto di libertà non era mai stato così chiaro. Nemmeno gli hippies erano riusciti a spiegarlo così bene e in modo così incisivo, pur essendo uno dei loro principi assoluti. Scrivere la storia della mia vita ha riaperto tanti cassetti ormai sigillati, facendomi allo stesso tempo capire che forse sono meno stupido, ma la rabbia proviene sempre dallo stesso punto. Per me può forse valere un po' il paragone con il protagonista di Arancia Meccanica, nel senso che alla fine della storia non capirai mai bene quanto e come io sia effettivamente cambiato. Sono stato spesso un coglione, ero un tossico, quindi era inevitabile che lo fossi in molte circostanze. Ho corso il rischio di rovinare tutto più volte, ho distrutto rapporti e rischiato che invece che la musica alla gente arrivassero i miei comportamenti distruttivi e antisociali. Invece ho avuto la fortuna, o il merito, di riuscire a lasciare un segno molto importante nella storia della musica. E questo mi permette di non avere rimpianti. Quando ho detto basta, io piaci, ho abusato per 10 anni di coca. Ora, ogni tanto mi sbronzo. Chi è stato un junkie, in qualche misura, lo sarà sempre. Someone else's pocket, then make a slip. Steal a car and go to Las Vegas. without a face. Eyes without a face. Eyes without a face. Got no human grace. Eyes without a face. Such a human waste. Eyes without a face. Insomma, dico che non ricordo praticamente niente della mia vita, mentre invece la memoria ha retto bene. Quando finisce la rockstar e inizia l'uomo? Sai, quella era una frase che dissi tempo fa parlando della realizzazione del libro. Ma fu più una battuta che altro. So che detta in quel modo poteva sembrare la classica sparata da rockstar che vuole farti intendere che la sua vita dissoluta l'ha portata a dimenticare la metà delle cose che ha fatto. In realtà molte cose le ho dimenticate davvero, così come credo qualsiasi altro artista che abbia scritto un'autobiografia. Credo che in questo senso il mondo si divida in due. Chi ostenta vizi e aneddoti più o meno piccanti, quasi a far vedere di non aver subito alcun danno. E chi invece certe cose addirittura le nasconde. Diciamo che non ho mai amato nessuna delle due strategie e ho cercato di non mettere censure. Ma allo stesso tempo di mettere in piazza anche debolezze ed errori. E poi devo chiedere scusa a molte persone perché ero davvero uno stronzo in quegli anni. Beh, iniziamo col dire che ero ubriaco marcio. Avevo bevuto una quantità di vino imbarazzante e il tutto si univa alle droghe di cui mi facevo quotidianamente. Quel giorno, inoltre, ero di pessimo umore e le sostanze non fecero altro che amplificarlo a dismisura. Il risultato fu che gettai una montagna di merda su Rolling Stone, che ci lavorava. E dire che non avevo mai avuto una brutta considerazione dalla rivista, anzi, avevo apprezzato molto anche la campagna che avevano fatto a favore della cittadinanza americana John Lennon. Erano andati apertamente contro Nixon e senza girarci troppo intorno, dimostrando di avere davvero le palle. Ma io però non mi comportai da bambino viziato, credevo solo davvero che non ci fosse futuro per la mia generazione. Stand still. All the riot rage. pretty king. Yeah, well, you could be king. Mm-hmm. good music? Do you want to dance? Since nearly morning, I think I'll risk that chance. Neighbor to neighbor, door to door. My crime, enjoyed my time. I like this never been nothing before. I've never been nothing Vabbè, oggi posso dirlo, me la sono spassata e sono sopravvissuto, però cazzo, che sofferenza e che rischi ho corso. Credo che per voi giornalisti sarebbe stato utile per raccontare l'ennesima rockstar morta a causa delle droghe. Ma mi dispiace per voi, dovrete sopportare ancora la mia faccia da bullo viziato e cercate di non criticare le mie canzoni, sono ancora pericoloso! No, dai, sapete che mi piace giocare con le parole. Posso dire solamente che sono contento di aver smesso con quella robaccia. Il resto sono solo argomenti per riempire le pagine dei giornali scandalisti.